prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Ad ogni rubrica la sua sigla, benvenuti anche nello spazio dedicato alla Caritas. In questa puntata abbiamo molte direzioni verso le quali guardare. Una è verso l'estero, una è verso Venezia e una è verso l'Emilia Romagna. L'estero vuol dire Kosovo, perché pochi giorni fa la Caritas di Venezia e le Caritas del Nord Est hanno ricevuto un importante riconoscimento come ringraziamento. L'ho ricevuto direttamente il direttore della Caritas veneziana, Monsignor Dino Pistorato. È diventato cittadino onorario di Peia, cittadina del Kosovo. Questo per ringraziare del sostegno economico e morale profuso sia dalla Caritas veneziana che da tutte le Caritas del Nord-Est. In particolare sono state ricostruite 130 case, ma anche scuole, centri sportivi e centri giovanili. La Caritas del Patriarcato ha devoluto 2 milioni e 400 mila euro, grazie ai quali appunto sono state ricostruite queste strutture, anche un centro informatico, una scuola materna. Adesso lì dentro ci sono un'ottantina di bambini. Un impegno che non finisce, ha ricordato Monsignor Pistolato. Per 5 anni si garantisce che ancora si sosterrà sia la scuola appunto che il centro giovanile, quindi non basta certamente costruire i muri, che sono importanti per continuare l'attività sociale e culturale di quel territorio, ma bisogna continuare a sostenere finché poi le strutture potranno camminare con le proprie gambe. E qui evidentemente torniamo agli anni della guerra. 12 anni fa la Caritas veneziana andò per la prima volta in quel territorio, proprio nei giorni in cui si era appena concluso il bombardamento decisivo che poi diede una svolta al conflitto. Questa piccola cittadina del Kosovo, che è stata praticamente smembrata dalla guerra, ora anche grazie a queste iniziative sta cercando di rinascere, e quindi anche il sostegno che in tanti danno alla Caritas di Venezia si sa che va anche in quella direzione. All'inizio dell'anno pastorale della Caritas veneziana, Monsignor Francesco Moraglia, il patriarca, ha indicato agli operatori riuniti a Venezia il senso vero della carità cristiana. L'uomo ha bisogno del pane, ha ricordato il patriarca, ma ancor più ha bisogno del senso della vita. Erano parole attese, perché è la prima volta appunto che il patriarca incontrava gli operatori della carità attivi nelle parrocchie, nei vicariati di Venezia, sia a livello diocesano che poi anche nelle singole associazioni. L'invito del vescovo di Venezia è stato prima a pregare, poi ad operare, perché ovviamente l'attività caritatevole ha migliore riuscita, migliore efficacia se affonda le radici proprio nella preghiera, e che non diventi attivista certamente con finalità buone, ma che poi rischia di essere sterile. Una promozione umana, quando 40 anni fa fu fondata proprio la Caritas a livello nazionale, furono queste le attenzioni messe in evidenza. E in questi giorni poi, tra l'altro, ci sono altri anniversari che ricorrono: i 50 anni dell'anno della fede. Giovedì ci sarà l'apertura, lo ricordiamo in diretta anche sulle nostre frequenze. Poi domenica pomeriggio da San Marco alle 15:30 si celebrano anche i 20 anni del catechismo della Chiesa Cattolica. La povertà è certamente materiale, lo sempre di più in questi tempi, ha ricordato il patriarca, ma c'è anche la povertà spirituale delle persone, povertà che è anche di conoscenza di elementi basilari del catechismo, che magari fino a un paio di generazioni fa potevano essere considerate patrimonio comune e dei dati di fatto, adesso non lo sono più. Non è più ovvio che si conoscano almeno gli elementi essenziali del catechismo, o se non altro della storia di Israele o di Gesù e della sua famiglia. L'atteggiamento giusto da parte degli operatori della Caritas deve essere guidare coloro che se ne occupano con ammirazione, ma anche guardandoli come una specie di profezia che non si è ancora compiuta. Un'attenzione all'uomo che non ha colto ancora la totalità dell'uomo. E dunque parole importanti per spingere ancora più avanti il servizio, sempre importante ed efficace a favore di tutti in terra veneziana, ma anche all'estero, come abbiamo sentito da parte degli operatori della Carità veneziani. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. E poi ci sono le emergenze. Emergenze ce ne sono sempre, disastri naturali che periodicamente colpiscono nei punti più lontani del nostro pianeta oppure vicino, vicinissimo a noi. E parliamo delle zone terremotate. I bambini di San Felice sul Panaro avranno di nuovo un asilo. La scuola per l'infanzia Caduti per la Patria, duramente colpita dal sisma di maggio. Il terremoto aveva compromesso in particolare le travi portanti dell'antico edificio che risaliva ai primi anni del Novecento. Struttura quindi, come tantissime altre, dichiarata inagibile, ma nei prossimi giorni, grazie al sostegno economico della delegazione Caritas Nord-Est, l'asilo riaprirà i battenti per 60 dei 130 bambini iscritti, quindi circa metà potranno tornare a lezione, a scuola, in un ambiente consono e non provvisorio. I bambini e le maestre potranno utilizzare inizialmente un modulo esterno alla struttura principale che è adeguato all'attività didattica, e accanto a questo c'è un altro modulo abitativo che permetterà alle due suore che coordinano la scuola di San Felice sul Panaro di poter riprendere il loro posto vicino appunto all'istituto. Intanto proseguono anche i lavori di adeguamento antisismico dell'antica struttura principale. I lavori dovrebbero concludersi ormai a giorni, entro la metà del mese, quando l'asilo verrà completamente restituito ai bambini, alla maestra e più in generale all'intera comunità. Spesa complessiva da parte della Caritas di circa 280.000 euro. Si tratta di una tappa importante. Il coordinamento di questo intervento della delegazione Caritas Nord-Est è stato della Caritas di Trento, un impegno reso possibile grazie alla generosità di tante persone e che poi proseguirà anche con la Caritas di Bolzano, verificando le esigenze abitative dei cittadini che lasceranno prima o poi, speriamo più presto possibile, le tendopoli a San Felice e a Camposanto. In queste località si attendono le richieste per alcuni moduli abitativi destinati alle famiglie che ancora per alcuni mesi purtroppo non potranno rientrare nelle loro abitazioni. Speriamo che non ci sia un inverno pesante quanto è stata pesante l'estate. Prosegue intanto la sinergia tra la delegazione delle Caritas del Nord-Est e le diocesi colpite dal sisma. Nei prossimi giorni a Modena sarà fatto anche il punto sui gemellaggi e sugli interventi Caritas nelle aree colpite dal sisma, in modo che sia tutto completamente verificabile e anche documentato, insomma, in tempi in cui si sente parlare di sprechi e di dissolutezze dal punto di vista finanziario. L'impegno della Caritas, lo sottolineiamo, è verificabile poi sul territorio, si può toccare effettivamente con mano. Questo non per fare pubblicità gratuita o per vantarsi, ma perché effettivamente è un dato di fatto che il percorso che fanno i soldi passati attraverso la Caritas è un percorso nitido, limpido, trasparente e che va davvero a buon fine per le persone che effettivamente ne hanno bisogno. Di questo poi torneremo a parlare anche negli spazi successivi, nelle prossime settimane. L'appuntamento è sempre a quest'ora con la nostra rubrica Prossimo Tuo, in cui cerchiamo di raccontare le esperienze positive della Caritas e anche di sollecitare una nuova sensibilità oppure di rinnovare quella vecchia che magari si era un po' assopita nei confronti di chi anche tra di noi può avere più bisogno. Avete ascoltato Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.